Wake up, everybody, no more sleeping in bed. No more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Oh, bene, a due giorni dall'estate, il buongiorno arriva puntuale, è il 19 giugno del magico mercoledì di Radio Città Fujiko, Bermuda in Pradito, in conduzione in diretta, la voce di William Piana che vi dà la buona colazione anche per questa metà settimana arrivata, è giunta puntuale, la prima colazione in diretta coglie super mattiniere, super mattinieri, 103.1 in frequenza, www.radiocittafujiko.it. Ricordo tanti gli appuntamenti culturali d'arte, quindi leggete articoli sul nostro sito, ovviamente anche per redazione giornalistica ed attualità. E certo, a proposito, a breve lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, a maggior ragione quest'oggi con la possibilità di portarvi in biblioteca due libri in pubblicazione in premio per voi con i quiz del Voltiamo Pagina. Oggi è l'ultima puntata assieme a Lorenzo Pauri, redattore di Radio Città Fujiko, che ringrazio per la rubrica letteraria in attesa del ritorno della nostra prof Silvia Albertazzi. Quindi 333-180-9494, ovviamente anche per comunicazione e co-conduzione in diretta. Brano del buongiorno imminente, visto che ho parlato di sole ed estate, è Il Cammino del Sol di Isabel Antena. Tra pochissimo apriamo la nostra edicola, io vi auguro un buon ascolto, un buon mercoledì e una buona colazione. A tra poco! sì al premierato, riforme fasciste, operai che muoiono sul lavoro, operai mutilati in nero che vengono scaricati con un calcio in mezzo alla strada, e quindi va benissimo che bacia lei, che bacia lui, che dà la lingua anche ai cani, mi va benissimo, anche perché sono stato il primo io a sostenere questi diritti, andare a ballare sui carri. Ma adesso è il momento di un'opposizione che arrivi anche ad argomenti che portano l'attenzione al lavoro, a quella che è la sicurezza sul lavoro, a quella che è un adeguamento salariale, a quella che è una lotta contro il precariato e lo sfruttamento. Vediamo un po' dalle prime pagine dei quotidiani odierni i contenuti che troviamo, dai giornaloni fino ad arrivare anche alle testate selezionate qui al Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Apriamo la nostra edicola, lettura delle prime pagine che è offerta da... La lettura delle prime pagine vi è offerta da... Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com. Tranquillo Wolf è un modo di dire, nessuno ti vuole importunare, anzi con un caloroso abbraccio saluto Wolf e Lino al 333-180-9494, arriva puntuale il buongiorno dalle ascoltatrici agli ascoltatori. Allora, ricollegandomi a Corriere della Sera, arriva il primo sì al premierato. La protesta delle opposizioni in piazza, nomine dell'Unione Europea, spaccatura 3-27 sul peso dell'Italia. Il testo approvato in Senato, Meloni e la fine dei giochi di palazzo. Conte replica a Grillo, scontro sul futuro del Movimento 5 Stelle. I problemi restano, ma dai, Antonio Polito, retroscenista del giorno dopo sul Corriere della Sera. Lo scenario, Verdi e destra, due fronti per von der Leyen. La misura contestata, redditometro slitta per ora, l'abolizione, l'allarme del Colle, Mattarella, da Mosca una tempesta di fake news. Meno male che almeno noi abbiamo la NATO, l'Occidente, l'Unione Europea, che è sempre molto sincera. Centropagina, procediamo con l'esame, prova di italiano per 526.000, maturità oggi il tema, blitz in 47 diplomifici. Intanto in bocca al lupo a chi si avvicina a questa prova, ai ragazzi e le ragazze maturande. La Repubblica, beati voi, aggiungo, riforma, non solo perché avete qualche decennio in meno di me, questo ovviamente scatta una malcelata ma positiva invidia, ma anche per la possibilità che non sprecate, la mi raccomando, che di ignorante ne bella sé, come diceva mia nonna, traduco, di ignoranti ce n'è già abbastanza. Il fronte della Costituzione, a maggioranza la destra approva in prima lettura al Senato il premierato, ed entro oggi farà diventare legge definitiva l'autonomia differenziata. Le opposizioni unite in piazza a Roma. La Schlein che abbraccia Conte, fermiamo la riscrittura autoritaria della carta e i finti patrioti che spaccano il paese. Traditori e fascisti, aggiungerei. Mattarella, in Italia tempesta di disinformazione da siti russi. Ostilità inaccettabili, no? Mandiamo dei missili, che invece sono un messaggio di pace. A proposito, oltre che il lavoro, la politica estera, e smettere, chiudere totalmente questo commercio d'armi e di morte. Un pasticcio brutto, l'analisi di Carlo Cottarelli, le nomine, offerta di Ursula Meloni, un commissario per PNRR e bilancio. Sicilia, la grande sete, raccolti bruciati e turisti in fuga. Si chiude la partita globale che si gioca in Ucraina, a fondo pagina su Repubblica. Sono le 7:10 minuti, quindi puntualmente queste prime due testate come prima pagina sono state lette, ricordando che l'approfondimento in rassegna stampa curata da Alfredo Pasquali sarà dalle 9:30 alle 10:30. Intanto un po' di musica con Marden Hill, Harlem River Drive, e tra poco con il manifesto, il fatto quotidiano del domani, procediamo nello spazio dedicato alle notizie. A tra poco. Aggiungo anche che, come ben sapete, dalle 7.30 la linea andrà al GR di Radio Popolare. In seguito poi vediamo diversi motivi di approfondimento. Oggi la rubrica è letteraria con il Voltiamo Pagina, libri a colazione. Ritroviamo Lorenzo nell'ultima puntata assieme al redattore giovanissimo di Radio Città Fusico. Quindi avremo modo di portare due libri per voi, uno proposto da me, uno da Lorenzo, e il quiz immancabile al 333-180-9494. Aspetteremo le vostre risposte. Buongiorno Fabio, si unisce al mio augurio. Volevo fare l'in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi sosterranno la maturità, compresa mia figlia, ed auguro a tutte e a tutti di essere degli splendidi rivoluzionari, compresa mia figlia. Beh, in bocca al lupo, anche il Breakfast Club porta questa importante incoraggiamento all'appuntamento per maturande e maturandi. Manifesto apre la seconda parte. Israele chiede, Washington concede. Blinken, rimuoveremo i colli di bottiglie. Il Congresso pensa all'invio di armi F-15. Egitto, cori per Gaza, 250 tifosi arrestati. Giovani, molto di loro adolescenti, sono stati arrestati venerdì dalla polizia egiziana dopo aver fatto dei cori allo stadio in solidarietà con la Palestina. Forza giovani! Quindi assolutamente con una solidarietà più totale, almeno abbiamo movimenti giovanili dalle università o anche al di fuori degli atenei che hanno le idee ben chiare e il coraggio, e quindi questa forza che arrivi d'esempio a tutte e a tutti. La premier, opposizioni di sinistra per una volta insieme a Roma. La piazza non è grande ma è piena e chiede un fronte popolare contro la destra. Ci sono volute le botte in Parlamento e l'attacco alla Costituzione, infatti. Ieri il primo sì al premierato, avanza l'autonomia differenziata. Piazza Santi Apostoli, il fronte del no, una promessa di alternativa. Dal Manifesto a fondo pagina inizia la prova generale di merito e disciplina. Sapete da dove deriva la parola merito? Io che ho la passione dell'etimo e dell'etimologia, da meretricio. Ecco, questo non aggiungo altro commento, eh. L'inchiesta Giovani Meloniani, ombra su Ester Mieli. Dopodiché, a proposito, nozze omosessuali, storico sì, in Thailandia. Il Fatto Quotidiano, titolo principale, un G7 da 100 milioni, appalti segreti, opachi, tutto in deroga. La delegazione non pubblica cifre, aziende ovviamente, addio all'ANAC, anticorruzione esclusa, affidamenti in via diretta e scudo erariale. Premierato, primo sì e prima piazza di Schlein Conte & Company, schiforme. La Lega vuole già modifiche, spinge per l'autonomia. Movimento 5 Stelle, botta e risposta, lite Grillo Conte ribelli. Assurdo tornare indietro. Incubo conti pubblici, deficit, procedura contro l'Italia, l'Unione Europea ci pone tra i cattivi. Si cercano i dispersi, migranti dopo che hanno buttato a mare alcuni disperati già di per loro in gravissima difficoltà. Atene li ignora, in 2 anni più di 1000 morti. Stoltenberg contro Cina, il boia della NATO, 18% di spese militari in più, Stati Uniti in ansia sul Libano. Si chiude con le due righe sopra la testata. Babbo e mamma Renzi accusano di accanimento. Il PM che chiede condanna a 5 anni per bancarotta e false fattura. Hanno preso dal figlio che a sua volta ha preso da Berlusconi. Chiudiamo con il Domani questa seconda parte. Prima picconata alla Costituzione. Schlein a Meloni. Spacchi l'Italia. Il Senato passa al disegno di legge sul premierato. Opposizione in piazza contro l'autonomia. La strada stretta delle nomine. Sovranista e vittimista. La Premier in Unione Europea poi è irrilevante. Turchia, Calabria, la rotta del dolore, la strage dei migranti rischia di non essere l'ultima, i nodi giuridici sui CPR in Albania, la natura e la destra che vuole sabotare la svolta verde, e dopodiché la chiusura con le analisi, l'astensionismo fa male alla sinistra anche quando non perde le elezioni. 7 e 18 minuti dopo questa analisi che riporta Sergio Labate dalla prima pagina del Domani a fondo pagina, terminata è questo secondo segmento. Tra poco con il giornale Il Resto del Carlino chiuderemo la parte dedicata alle notizie, ascoltiamo un po' di musica con la splendida voce di Terry Callier. A tra poco, buon ascolto. I heard the news just the other day. Bombs are falling in a land so far away. Well, and there's a new chill in the midnight air. The children living there. Come vi ho detto, questa prima parte della prima colazione in diretta con lettura delle prime pagine dal Resto del Carlino, il titolo principale: premierato, primo sì, sinistra in piazza, il Senato approva l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, 109 voti favorevoli, 77 contrari e un astenuto, il centrodestra esulta, PD, ABS e Movimento 5 Stelle manifestano a Roma, appello di 185 giuristi consegre, la riforma pericolosa, il costituzionalista Angiolini deriva populista. Poi la sindacalista e il bracciante scaricato con un arto amputato, come vi dicevo in apertura questa notizia allucinante, caporali feroci. Ho visto l'orrore, quindi vi dicevo appunto va benissimo, le feste, i diritti, sono il primo io sui carri a cantare le canzoncine mainstream, però adesso è il momento di altre piazze anche, ma assolutamente, per la pace, per il lavoro, per un'unità che sia motivo di forza, perché la deriva è veramente grave e non solo in Italia, gli eurosocialisti puntano i piedi, Ursula rischia le trattative per la nuova Europa, per la nuova Unione Europea. Maturità al via in 520.000, affrontano il tema, oggi è la prima prova. Dopodiché chiudiamo con basta, non c'è altro da aggiungere perché ci sono solo aspetti di cronaca sul resto del Carlino, dalle città il dibattito al Carlino, scuola, sanità e urbanistica, Castelmaggiore al ballottaggio. Lasciamo il resto del Carlino, concludiamo con il giornale che esulterà. Svolta storica, primo sì al premierato, via libera del Senato alla riforma costituzionale che consente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e blocca i ribaltoni. Dopo le elezioni, trattativa per le nomine dell'Unione Europea, si muove il PPE a favore di ECR. Sindrome italiana a Bruxelles, dopodiché la visita in Moldavia, Mattarella dalla Russia, una tempesta di fake news. Nuovo redditometro, rinviato lo stop alla Commissione Bilancio. I deliri social anti-Meloni del docente universitario, frasi sessiste ed estremiste, ecco qui. E poi scattano, no, le restrizioni. Giustizia e politica, Toti Grillo dai magistrati, due pesi e due misure. Chiudiamo con quella che viene definita l'ecofollia dell'Unione Europea che mette a rischio il nostro territorio. L'analisi del giornale che puntualmente mette la parola fine alla nostra lettura delle prime pagine, quindi alle 7:25 minuti un po' di musica che ci permette il collegamento tecnico con il GR di Radio Popolare e poi rientriamo per continuare la nostra prima colazione in diretta. Il Breakfast Club di Radio Città Fujiko di oggi, mercoledì 19 giugno. A tra poco. È stato offerto da 16 Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info www.osteriadellorsa.com. Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio. Sartoria gastronomica. Il piacere della tavola italiana da 10 anni. prodotti di alta qualità nel rispetto della tradizione culinaria del bel paese. Sartoria gastronomica, bar, ristorante, cocktail bar e pasticceria. Aperti 7 giorni su 7 per colazione, pranzo, cena e dopo cena. Piazza Aldrovandi a Bologna. Sartoriagastronomica.it. Grazie di cuore alla città di Bologna per questi 10 anni. È un tripudio di profumi, colori, frutta, cereali, verdure e carne selezionata. La cucina libanese è il mix perfetto ed equilibrato, sano e gustoso. Ristorante libanese Beirut Snack. Vieni a scoprire gli speciali falafel con hummus, lo shawarma artigianale e tantissimi altri piatti. Beirut Snack. Aperto tutti i giorni, pranzo e cena, in via dei Carracci 69, dietro la stazione. Beirutsnack.com. La perla della cucina araba. Rimandato o bocciato? L'Istituto Vico ha la soluzione per te. Recupera 2 anni di scuola in uno. Iscriviti all'Istituto Giambattista Vico. Siamo a Bologna in via Saffi 18. Lezioni in classe oppure individuali. Scegli il tuo piano di studio. Contattaci su istitutovico.com o cerca Istituto Vico Bologna su Google. Le iscrizioni sono aperte. Istituto Giambattista Vico. Studiare è un gioco da ragazzi. Nei fine settimana di giugno e luglio, Piazza San Francesco si riempie di musica e spettacoli a ingresso gratuito. Venerdì, l'attivista Lea Melandri presenterà corrispondenze amorose degli anni Ottanta. Sabato e domenica, un racconto in parole, musica e danza per il 150° anniversario di Guglielmo Marconi. San Francesco Estate, musica e teatro in piazza dal 21 giugno al 28 luglio. Info e prenotazioni sul sito dell'Arena del Sole o in biglietteria. Popolare Network. Il governo accelera sulle riforme. Ieri il primo sì dal Senato al Premierato, alla Camera maratona notturna per l'autonomia differenziata con la Lega, che punta all'approvazione entro domani. Contro le riforme della destra nasce il Fronte Popolare delle Opposizioni, per la prima volta ieri in piazza PD, 5 Stelle, AVS e più Europa. Basta divisioni e l'appello di Eli Schlein dal palco. Medio Oriente, l'esercito israeliano approva i piani per un'offensiva in Libano. Il ministro degli esteri Katz evoca la possibilità di una guerra totale e dice: a breve la mia decisione. A Gaza i bombardamenti continuano e si aggrava la carestia nel sud. Secondo le Nazioni Unite, nelle ultime settimane sono diminuiti drasticamente gli ingressi dei convogli umanitari. Intanto il Congresso americano approva l'invio di 18 miliardi di dollari di armi per Israele. È iniziata la visita ufficiale di Vladimir Putin in Corea del Nord e insieme a Kim Jong-un firmerà un accordo di partnership strategica tra i due paesi. Il presidente russo non visitava la Corea del Nord dal 2000. Inizia la maturità, oggi la prima prova di italiano, da lunedì gli orali, più di 520.000 studenti sosterranno l'esame. Del Toto Tracce le più gettonate sono l'anniversario dell'omicidio Matteotti e della nascita di Guglielmo Marconi. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 7:31, il giornale radio. La politica italiana, la destra spinge sulle sue riforme bandiera. Alla Camera si è conclusa poco fa la maratona notturna per l'approvazione del DDL sull'autonomia differenziata. Ieri invece il governo ha incassato il primo sì al disegno di legge sul premierato, approvato in prima lettura al Senato. Le riforme della maggioranza compattano però le opposizioni, che nel pomeriggio di ieri si sono riunite in piazza Santi Apostoli a Roma. Basta divisioni, è stato l'appello della segretaria democratica Eli Schlein dal palco dell'evento. Per noi c'era Anna Bredice. Li fermeremo insieme, li dobbiamo fermare. L'ultima leader a salire sul palco è stata Eli Schlein, che con queste parole promette che ci saranno altre piazze come quella di ieri pomeriggio. Piazza Santi Apostoli era piena, il palco a metà della piazza non ha permesso a tutti di entrare, ma hanno comunque provato ad esserci anche solo per pochi minuti per testimoniare la loro contrarietà alle riforme, ma soprattutto per vedere dopo tanto tempo le opposizioni di nuovo unite. Molto unite nel retropalco, Schlein e Conte vicino vicini ad esempio sul palco invece uno dopo l'altro a parlare, hanno evitato la fotografia finale tutti insieme, forse perché le altre nel passato non hanno portato bene o forse perché manca un pezzo di opposizione, l'ex terzo polo, ma quello che è venuto ieri è stato un passo avanti importante, voluto e applaudito dalla gente che ha gridato unità più volte, quando Fratoianni dal palco ha ammesso che la destra non è un destino e che ha vinto perché la sinistra era divisa. Elly Schlein, che ha voluto per prima organizzare la manifestazione, ha fatto un appello: basta divisioni, ha detto, teniamoci strette le differenze, facciamoci trovare pronti, uniti e compatti. Ieri hanno fatto sentire la loro voce contro le due riforme che camminano spedite ma che andranno incontro a due referendum. Altri appuntamenti e passaggi ci saranno su altri temi, su alcuni come salario minimo e la sanità le condizioni per un'opposizione unitaria ci sono, per altri è più complicato, ma la piazza di ieri sembra un buon inizio, partiti e associazioni, ampi e sindacati, una realtà molto ampia che per le opposizioni è maggioranza nel paese. Linea allo studio. E a contestare la riforma sul premierato non sono però solo i partiti di opposizione, ma anche diversi giuristi e costituzionalisti che identificano nel testo errori e ambiguità. Sentiamo Vittorio Angiolini, professore emerito di diritto costituzionale alla Statale di Milano. Il problema è questo: il premierato, così come delineato, non si può fare, perché quando la destra dice la legge elettorale la faremo poi, nasconde la polvere sotto il tappeto, perché il problema è che non si può fare una legge elettorale che sia conforme al criterio costituzionale, se la proposta sul premierato è quella, perché siccome si vota in un turno solo per il premier e si vuole dare la maggioranza ai partiti che sostengono il premier, è possibile che il premier venga eletto grazie ad un partito che ha il 20% dei voti, e questo 20% prenderebbe in Parlamento oltre il 50%, cioè del percento dei posti. Voi capite che questo non è possibile. Ma oltre ad esserci, diciamo, questo come difetto tecnico principale ed altri, il problema è che questa proposta è fatta con delle promesse che vengono tradite, perché non è vero che assicura la stabilità, perché è vero che il governo può dominare il Parlamento con il potere di scioglimento secondo questa riforma, ma è vero anche che il premier e il suo governo restano sotto scacco grazie alla possibilità della sfiducia parlamentare. Veniamo alla guerra in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha fatto sapere che i piani operativi per un'offensiva in Libano sono stati approvati e validati. L'annuncio è arrivato alla fine di una giornata di grandi tensioni al confine nord Israele e dopo che il ministro degli esteri israeliano Israel Katz aveva esplicitamente evocato la guerra totale per distruggere Hezbollah. Dopo l'annuncio dei militari ha detto che una sua decisione a tal proposito arriverà presto. Ieri è arrivato in Libano anche l'inviato americano Amos Hochstein, che ha descritto la situazione lungo il confine come grave. Nella striscia di Gaza intanto non si fermano i bombardamenti. Nella notte è stata colpita Gaza City e il campo profughi di Al-Mawasi. Secondo le Nazioni Unite poi nelle ultime settimane c'è stata una diminuzione drastica dell'ingresso di aiuti umanitari nonostante l'annuncio della pausa tattica dello scorso weekend. Secondo New York Times poi anche il molo costruito dagli Stati Uniti per la consegna degli aiuti ha ampiamente fallito nella missione e probabilmente verrà smantellato già a luglio. È costato 230 milioni di dollari e da quando è in funzione è stato attivo solo 10 giorni. Dal Congresso americano intanto è arrivato il via libera all'invio di un pacchetto di armi per Israele del valore di 18 miliardi di dollari, comprendente anche 50 caccia F-15. In diretta Roberto Festa. Buongiorno. Alla fine le pressioni dell'amministrazione Biden sono servite. Due democratici di primo piano, si tratta di Gregory Meeks, che è un deputato di New York, e di Benjamin Cardin, che è senatore del Maryland, hanno appunto detto che appoggeranno la fornitura da 18 miliardi di dollari che il Dipartimento di Stato aveva notificato al Congresso lo scorso gennaio e di cui fanno parte, tra gli altri, anche 50 jet da combattimento F-15. Sia Meeks che Cardin in un primo tempo erano contrari a quelle forniture. A questo punto quindi il Dipartimento di Stato può procedere con la notifica della transazione al Congresso, che sarà il passo finale prima della chiusura dell'accordo. Si tratta di uno tra i più massicci invii di armi a Israele da parte degli Stati Uniti negli ultimi anni. È comunque probabile che settori progressisti e democratici facciano sentire la loro contrarietà proprio al Congresso e accusino di ipocrisia l'amministrazione che da un lato chiede a Israele moderazione, dall'altro continua però ad armare l'esercito israeliano. Dall'inizio della guerra a Gaza l'amministrazione Biden ha ordinato oltre 100 invii di armi a favore dell'alleato, a favore di Israele. Martina. Grazie, grazie Roberto Festa. Ed è iniziata questa mattina a Pyongyang, in Corea del Nord, la cerimonia ufficiale organizzata per la visita nel paese di Vladimir Putin. Il presidente russo è arrivato nella capitale nordcoreana nella serata di ieri. In un articolo pubblicato su un quotidiano nordcoreano prima della partenza, Putin ha scritto che la Russia è fermamente convinta che il viaggio servirà a portare la cooperazione bilaterale ad un livello più alto. Oggi i due leader infatti dovrebbero firmare un trattato di partnership strategica legato soprattutto alla politica estera. L'ultima volta che Putin ha visitato la Corea del Nord era il 2000. Sentiamo il servizio di Gabriele Battaglia. 9 ore tra colloqui, cerimonie e foto celebrative, questo è il programma odierno dell'incontro tra Kim Jong-un e Vladimir Putin, di nuovo in Corea del Nord dopo 24 anni. Il presidente russo, atterrato a Pyongyang alle 2.45 ora locale, facendosi annunciare dalla promessa di una cooperazione sempre più stretta tra i due paesi per superare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Stretta di mano e abbraccio con Kim che lo attendeva in aeroporto, mentre l'agenzia di stampa nordcoreana descrive il loro incontro come un evento storico che dimostra l'invincibilità e la durata dell'amicizia e dell'unità tra le due nazioni. I colloqui sono già iniziati. Alla vigilia Putin aveva dichiarato di apprezzare il fermo sostegno della Corea del Nord alle sue azioni militari in Ucraina e che Mosca e Pyongyang continueranno a opporsi risolutamente alle ambizioni occidentali di, virgolettato, ostacolare l'instaurazione di un ordine mondiale multipolare basato sulla giustizia, sul rispetto reciproco della sovranità, sulla considerazione degli interessi reciproci. I due paesi non hanno un'alleanza militare formale, ma secondo i servizi statunitensi e sudcoreani, almeno dallo scorso autunno, Pyongyang starebbe rifornendo la Russia con missili e munizioni per la guerra in Ucraina. La cosa sembra strana, ma va detto che la Corea del Nord ha fatto passi avanti sul piano militare, quantomeno per quanto riguarda la tecnologia missilistica in una guerra convenzionale. La Russia potrebbe ricambiare con tecnologia militare molto più evoluta e soprattutto con un flusso di carburante e di rifornimenti alimentari fondamentali per un paese isolato e sotto sanzioni. Torniamo in Italia, la Procura di Latina ha aperto un'inchiesta sull'incidente sul lavoro in cui un operaio agricolo ha perso un braccio tranciato da un macchinario e i suoi datori di lavoro, invece di soccorrerlo, lo hanno scaricato davanti a casa in gravissime condizioni. L'episodio è avvenuto lunedì pomeriggio nelle campagne alle porte di Latina. L'uomo, un 31enne di origine indiana, è ora ricoverato in prognosi riservata. Si indaga anche per stabilire la corretta dinamica dell'incidente. Le ipotesi di reato al momento sono lesioni personali colpose, omissione di soccorso e disposizioni in materia di lavoro irregolare. Secondo Marco Mizzolo, sociologo che si occupa di migrazione e di diritti umani, questo purtroppo non è un caso isolato. Non è il primo caso, né a livello nazionale né a livello locale. Sono continue le volte in cui ci sono incidenti molto gravi che segnalano la brutalità di un sistema padronale di sfruttamento che arriva fino a volte a decretare la morte del lavoratore e della lavoratrice. In questo caso c'è una brutalità estrema che probabilmente, speriamo chiaramente di no, insomma, c'è la possibilità che conduca anche in questo caso alla morte del lavoratore che è ricoverato in un ospedale romano. Il responsabile di questo crimine, del personaggio, nota a livello familiare alle forze dell'ordine. Nonostante sia stato già, come dire, individuato e colpito dalle forze dell'ordine, ha continuato ad agire in maniera illegale, impiegando lavoratori a nero, cercando ulteriormente di nascondere incidenti nelle forme brutali, come dire, incivili che abbiamo tutti letto. Tutto questo interroga la nostra politica, che su questo tema non ha proferito parola, né il ministro del lavoro né quello dell'agricoltura, né il presidente del Consiglio che è stata in passato eletta a Latina, tutti in rigoroso silenzio, e questo è un altro tratto inquietante di questa vicenda. Bisognerebbe elevare una critica severa e azioni di controllo diretto nelle nostre campagne, e invece registriamo la quasi morte di un lavoratore e il silenzio dei rappresentanti massimi del governo italiano. La Commissione europea oggi ratificherà a Roma e altre 10 capitali europee l'apertura della procedura di infrazione per deficit eccessivo, a pesare sul 7,4% registrato dal disavanzo italiano nel 2023 e soprattutto il buco da 170 miliardi generato dal superbonus. Bruxelles chiederà all'Italia di ridurre il disavanzo strutturale di almeno mezzo punto di PIL all'anno fino al 2027. Si tratta di circa 10 miliardi, in cui in vista della manovra andranno sommati altri 18-20 miliardi per confermare il taglio del cuneo fiscale e del canone RAI. L'IRPEF ha tre aliquote e la lunga serie di sgravi a sostegno di famiglie meno abbienti, madri lavoratrici con due figlie e via di seguito. Restiamo a Bruxelles, dove in attesa del Consiglio dei leader di fine mese il Partito Popolare Europeo cerca di trovare una maggioranza solida per garantire un secondo mandato di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione. Dalla cena informale di lunedì l'Italia è emersa isolata, i tentativi di Giorgia Meloni di presentarsi come possibile interlocutrice sono falliti. Sentiamo Andrea Bonanni, inviato del quotidiano Repubblica a Bruxelles. In Europa sta cercando di avere un doppio atteggiamento, è dovuto anche alla condizione in cui si trova. Come leader di un grande paese fondatore dell'Unione Europea vorrebbe, aspira a far parte del tavolo decisionale dove si, per esempio, si decidono i nomi dei vertici europei. Peccato che non l'abbia consultata nessuno, neanche al G7 dove lei era anfitriona, francesi, tedeschi si sono riuniti tra di loro per discutere delle nomine. Insomma, i grandi la tagliano fuori dal gioco. D'altra parte, lei è il presidente del Partito Europeo dei Conservatori, la cui sigla è ECR, in cui ci sono l'estrema destra polacca, l'estrema destra belga, ci sono vari, c'è l'estrema destra spagnola, eccetera. Quindi lei ha anche, diciamo, una responsabilità politica verso questi partiti. Però questi partiti si stanno muovendo nel senso di creare una grande forza di opposizione alla maggioranza di centro-sinistra che si sta delineando a Bruxelles per la rielezione di Ursula von der Leyen. E quindi lei rischia di trovarsi spiazzata sul fronte dei grandi e spiazzata sul fronte, diciamo, politico della sua area di destra populista e anti-europea, che si sta muovendo per coalizzarsi anche senza di lei. Questa mattina inizia la maturità per 526.000 studenti. A partire dalle 8.30 ci sarà la prima prova di italiano, per poi passare giovedì alla seconda, mentre da lunedì prossimo iniziano gli orali. Per la prova di oggi nel Tototracce si trovano l'anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, la nascita 150 anni fa di Guglielmo Marconi o quella di 120 anni fa di Robert Oppenheimer, mentre tra gli autori più gettonati Pirandello, D'Annunzio, Manzoni e Ungaretti. Il nostro Tommaso Corleone si trova fuori dall'Istituto Bottoni di Milano, queste sono le voci degli studenti che ha raccolto. È stata un po' una notte quasi in bianco, nel senso che ho fatto molta fatica a dormire, però dai, un pochino ho dormito. L'ansia si è fatta sentire, ecco. Niente. La nottata e l'attesa abbastanza bene, non si ha molta ansia, almeno per me, poi i miei compagni diciamo che un po' più ansia ce l'avevano. Hai già un'idea di quale traccia scegliere, di quali saranno le possibili tracce? Diciamo che guardando anche le tracce vecchie ci aspettiamo, io e i miei compagni, sicuramente una traccia sull'intelligenza artificiale e siamo sicuri di una traccia a tema storico, quindi chi è più bravo in storia diciamo si è preparato molto quello. Io mi sono preparato più da un punto di vista letterario e filosofico per il tema e spera bene. Potrebbe uscire, ma non si sa mai perché non ne siamo sicuri, qualcosa di storia che possa riguardare appunto la storia, dato che quest'anno è il centenario della morte di Matteotti, però non si sa mai, ecco. Sara Milanese, Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:46 minuti, ci risentiamo alle 8 con le notizie. Grazie per l'ascolto e una buona giornata. Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. 1, 2, 3. Di nuovo in diretta dagli studi di Via Zanardi, Breakfast Club di oggi mercoledì 19 giugno, anticipando i contenuti della rubrica In Mostra, che come ben sapete sarà invece per la giornata di domani. Però tanti sono gli appuntamenti in questa stagione a Bologna e non solo, ne diamo anticipazione con intervista telefonica, anzi conversazione telefonica in diretta con noi, seppur l'orario sia, beh, direi da super mattiniero, con Stefano Pasquini, conduttore del Coxo Spaziale. Buongiorno e benvenuto, Stefano. Buongiorno e grazie. Ma grazie a te. Intanto, allora, ieri mi hai dato comunicazione, anzi nei giorni passati, di alcune esposizioni che sono in apertura in questo momento, fra l'altro portate da giovani. Ci puoi dire qualcosa di più? Sono due esattamente, almeno quelle di cui mi hai dato comunicazione. Di che si tratta, Stefano? Sì, ieri sera ha inaugurato una grande collettiva in questo nuovo spazio in via Testoni che si chiama MAG. La mostra è di studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti, curata da un'altra studentessa di didattica, Giulia Barbasso, che appunto abbiamo inaugurato ieri sera facendo anche piuttosto tardi. Oggi invece dalle 18 alle 23 apriamo un'altra collettiva, questa volta l'ho curata io, sempre con l'aiuto di Giulia. La mostra si intitola Prima del corteo e abbiamo cinque artiste: Greta Fanni, Silvia Cogo, Angela Maria Fiore, Elena Menini e Arianna Scubla, infatti sono sei, e appunto è una collettiva che fa parte di Open Show, che è questo, diciamo, delirio che si sta espandendo in giro per tutta la città con Open Tour, e quasi tutte le gallerie di Bologna ospitano studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. La mostra di stasera è in uno spazio molto connotato, è il 5C Lab in Vicolo De Facchini 5C, che era un'ex falegnameria di questo signor Martello che molto simpaticamente l'ha donata all'associazione Serendippo. L'associazione Serendippo dunque ci ha chiesto di organizzare una mostra che appunto si intitola Prima del corteo, e avremo un po' di interventi abbastanza particolari che hanno una sorta di pregnanza leggermente politica, ma soprattutto altamente emotiva, per cui vi consiglio vivamente di venire a vedere questa mostra. Sì, infatti entriamo in mostra a breve, però prima ti volevo chiedere se puoi dare qualche informazione anche sulla rassegna in cui sono contestualizzate queste mostre, questi incontri. Ci puoi dire qualcosa a proposito? Hai citato di Open Tour e altro. Certo, Open Tour è una rassegna che esiste da 10 anni, organizzata dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, in particolar modo inventato da Giuseppe Lufrano, che è il direttore della Otto Gallery di Bologna, che insieme a Luca Caccioni, docente di pittura dell'Accademia, storico, che hanno pensato di aprire le gallerie agli studenti dell'Accademia in modo da dargli l'esperienza della professionalità all'interno delle gallerie. Questa cosa si è espansa a macchia d'olio negli anni e quest'anno abbiamo appunto 27 gallerie commerciali più altri 6 spazi alternativi, diciamo, che ospitano una marea di mostre collettive di studenti e studentesse dell'Accademia. Immagino grande entusiasmo per i giovani. Grande entusiasmo, grande fatica naturalmente, sì. Ma soprattutto grande esperienza. Devo dire che questa è una cosa particolarmente importante per loro, perché capiscono cosa vuol dire tutta l'organizzazione che c'è dietro a una mostra d'arte, e nello stesso tempo anche capiscono tutte quelle che sono le dinamiche del mercato, non solo del mercato, ma anche le dinamiche legate alle relazioni che diciamo compongono il mondo dell'arte italiano, che non sono dinamiche semplici. Sì, percorsi infatti che non sono esattamente immediati, seppur molto importanti. Onore al merito per l'impegno. E quindi entriamo in mostra, hai sottolineato due appuntamenti. Ci puoi dire qualcosa di più? Accompagnare parlarci, senza svelare ovviamente, all'interno di questi contenitori, Stefano? Assolutamente, prima del corteo che inaugura stasera appunto ci vede con i lavori di Arianna Scubla all'interno di questa falegnameria, per cui abbiamo delle pitture astratte che all'ingresso ci danno il benvenuto in questo spazio che è molto connotato e piuttosto difficile. Entriamo in una seconda stanza dove abbiamo una grandissima tela di Angela Maria Fiore, che fra l'altro è giovanissima ed è solo al secondo anno di pittura. Dopodiché incontriamo un'installazione molto particolare di Silvia Cogo, che lei parte da una stampa calcografica utilizzando il Tetra Pak, perché voi forse non sapete, ma il Tetra Pak si può graffiare e poi inchiostrare e poi stampare, e da questa cosa lei ha creato una scultura che fra l'altro ha poi inserito tra due lastre di plexiglass, creando veramente una cosa piuttosto particolare, molto, molto pregna di energia, che appunto è a metà tra una stampa calcografica e una scultura. Dopodiché incontriamo due piccole installazioni di Greta Fanni che hanno a che fare con il corpo e anche con le difficoltà legate a questo tema, e per ultima in realtà abbiamo che la prima cosa che incontreremo è un'installazione di Elena Menini, che ha preso il titolo della mostra ha preso spunto dal titolo della mostra per creare un'installazione che si chiama Muro Amore, dove ha preso lo spettacolo di sua mamma che aveva fatto nel 1989, subito dopo la caduta del muro di Berlino, e ha ripreso questa cosa, per cui noi vedremo un po' di clip vintage dello spettacolo di sua mamma, ma anche una ripresa performativa che appunto vedrà la caduta di un muro anche davanti alla nostra galleria. Poi mi hai parlato anche di uno spazio, se non mi sbaglio, in via Testoni, può essere? Ho capito lo bene. Spazio in via Testoni, sì, lo spazio in via Testoni ha inaugurato ieri, si chiama MAG, Magazzino Art Gaze, ed è uno spazio nuovo che ha appunto aperto poco più di un mese fa. La mostra che oggi troverete aperta si chiama Die Welt in der Wunderkammer, a cura di Giulia Barbasso, e vede Alice Antolini, Ginevra Bandini, Alex Barracato, Siria Castiello, Dalila Di Corso, Carol Graffiani e Beatrice Ricci. Diciamo che in questo caso entriamo in una Wunderkammer meravigliosa, con tutti questi lavori di questi studenti e studentesse che ci portano in un mondo che è altro. Prima che tu mi interrompi, ti devo anche dire che appunto come parte di Open Tour, giovedì sappiamo che inaugura il Mambo con una nuova mostra personale all'interno della sala degli Ciminieri, ma ti volevo dire che appunto attraversando la strada nella Blue Gallery troviamo The Black Gap, una collettiva con Alessia Cincotto, Chiara Ferri, Yumo Hui, Gaia Nieri e Agnese Zavoli, che appunto inaugura in questa piccola galleria, e sono tutte studentesse del biennio di grafica d'arte, e alcune di loro si sono appena laureate. Non ti interrompo, anzi mi unisco a te per la presentazione che sarà oggi al Mambo, probabilmente ci incroceremo. Ti ringrazio, certo, piuttosto per quello che hai portato all'interno di Open Tour con questi due momenti che hai sottolineato. Se ricordiamo, la durata, saranno in esposizione fino al 26 giugno, non tantissimo, praticamente avete fino a questo weekend o poco più, sì, esatto, una settimanina per vedere tutti questi lavori. Questo vale più o meno per quasi tutto Open Tour. C'è una mappa che trovate in quasi qualunque delle gallerie in cui c'è Open Tour, dove lì appunto, oppure se andate su ababo.it trovate la mappa interattiva di Google che vi porta in giro per la città e scoprirete di avere una mostra praticamente dietro alle vostre spalle, quasi in quasi qualunque posizione vi trovate a Bologna. E non dire che ti ho interrotto, anzi ti ringrazio per questa conversazione che anticipa la rubrica in mostra. Quindi ti auguro una buona giornata e a prestissimo al Mambo per quello che poi porteremo domani nella rubrica Regola d'Arte. Grazie Stefano, buona giornata. Grazie mille a te. Ciao anche a te. Ciao. Ciao. Canada, intanto che ci avviciniamo allo stacco pubblicitario e poi voltiamo pagina libri a colazione sui 103.1. Ricordo 333 180 9494. A tra poco.